Le strade della comunicazione. Aziende, enti, case editrici, organizzazioni internazionali. Ognuno di questi soggetti necessita di interpreti esperti, mediatori linguistici sempre più importanti per la comunicazione globale e multiculturale. Professionisti formati in maniera specifica e secondo alti standard tecnici e culturali. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Interprete di conferenza. L'interprete di conferenza, spesso un professionista autonomo, può lavorare tra l'altro in occasione di congressi o seminari e per servizi diplomatici e organizzazioni internazionali, quali ONU, UNESCO, FAO e Parlamento Europeo. Con tecniche specifiche e in modalità differenti, garantisce la mediazione linguistica ad altissimo livello. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza dell'Università Yulm, www.yulm.it. We'll be right back.